Gerusalemme era indaffarata quel giorno. Giudei provenienti da tutte le parti del mondo conosciuto affollavano la città. Si avvicinava la Pasqua ed ogni giudeo devoto voleva celebrare i giorni festivi nella città santa. A casa le donne erano indaffarate a preparare il pasto della Pasqua. Avevano acquistato grandi quantità di cibo per cucinarlo in pentola o al forno per la grande festa. Ma una donna non si era unita ai festeggiamenti, non aveva speso il suo denaro per comprare cibi, perché ne aveva poco e doveva spenderlo con saggezza. Non guadagnava molto denaro, ma sapeva esattamente cosa fare con quello che aveva. Si diresse direttamente al tempio e là, senza esitare, mise due spiccioli, cioè un quadrante, ossia, molto probabilmente, la più piccola moneta romana, nel tesoro del santuario. Gli uomini ricchi la urtavano mentre le passavano vicino per gettare grandi quantità di denaro nella cassa, denaro dalla loro abbondanza. Dopo aver fatta l'offerta, la vedova povera si ritirò senza essere notata, così com'era venuta. Senza essere notata? Non per quanto concerneva Gesù, il quale in quel momento si trovava lì con i suoi discepoli. Le visite che Gesù poteva ancora fare alla casa di suo padre erano contate. Dopo pochi giorni sarebbe stato preso prigioniero nell'orto del Getsemani, situato di fronte al cortile del Tempio, appena al di là del torrente Chidron. Poi sarebbe stato crocifisso. Stavano per accadere delle cose importanti. L'avvenimento più significativo della storia stava per compiersi, eppure egli aveva tempo di notare una vedova povera che offriva a Dio le sue monetine. Egli osservava la gente che buttava i soldi nella cassa del tesoro. Vide i ricchi che davano molto, e ciò era bene, ma i loro doni erano insignificanti se paragonati all'abbondanza delle loro ricchezze. A loro rimaneva ancora molto. Poi venne la vedova povera. Gesù sapeva ciò che essa stava per fare. Sapeva che quei due spiccioli erano gli ultimi in suo possesso. Essa aveva dato letteralmente tutti i beni posseduti al Dio che amava. Le sue monetine non avrebbero aiutato granché nel pagare le spese del tempio. Cosa si sarebbe potuto comprare con un quadrante? Al lettore moderno questo termine significa ben poco, se non nulla, e se anche venisse sostituito con una moneta moderna di valore corrispondente, l'inflazione corrente sminuirebbe comunque il significato del gesto della donna. Ma basti pensare che Gesù ha preso questa moneta come esempio per chi deve pagare il minimo indispensabile. Matteo 5:26. Gesù tuttavia considerò il dono della vedova povera tanto importante a attirarvi l'attenzione dei discepoli, disse: questa vedova povera ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, perché mentre loro vi hanno messo il superfluo, essa povera ha messo tutto quello che aveva. A Gesù non importava tanto quello che veniva dato, quanto piuttosto quello che rimaneva in tasca. Alla vedova povera non rimaneva niente. Gesù si preoccupava di ciò che il denaro rappresentava per il donatore, e per questa donna era tutto. Il denaro in sé non ha valore per Dio. Paolo scrisse: Dio che ha fatto il mondo e tutto quello che è in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito da mani di uomini, come se avesse bisogno di alcuna cosa, e lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. A Dio interessa il movente della persona che dona. Egli sa che, per natura, la gente tende a tenere molto stretto il suo denaro, dimenticando molto spesso che soltanto per la grazia di Dio può guadagnarlo, giacché è Lui che dà la salute ed una mente sana. Erroneamente si pensa spesso: posso fare quello che voglio con i miei soldi. Dio non desidera che la gente dia a Lui del denaro, come se egli ne abbia bisogno. Egli vuole solo che gli uomini si servano dei loro soldi nel modo giusto. Egli sa che se una persona dà parte dei suoi beni a Dio con cuore allegro, lo fa perché lo ama, perché vuole condividere tutto, anche quello che possiede e ha ottenuto con tanto sudore. Poi succede a volte che Dio moltiplichi il valore effettivo del denaro, come Gesù moltiplicò i pani e i pesci ai discepoli, quando questi offersero tutto quello che avevano per sfamare le folle che lo seguivano per udirlo parlare. Dio può fare dei miracoli con il minimo indispensabile, quando questo è offerto a Lui. Una persona che condivide tutto con Dio scoprirà che si può fare molto, col poco, quando Dio vi aggiunge la sua benedizione. È notevole che questa vedova povera abbia avvertito l'atmosfera del nuovo patto, pur vivendo ancora sotto l'antico patto, nel corso del quale il dare era governato dalla legge con Dio che delineava delle precise regole su come spendere i soldi. Il 10% di tutte le entrate doveva servire per i suoi scopi. Con questo 10% venivano stipendiati i servi del Tempio e i Leviti, e nessun giudeo poteva sfuggire a questo obbligo. Perfino i Leviti dovevano a loro volta dare il 10% del loro denaro. Ma con il nuovo patto la situazione è diversa. Non ci sono regolamenti rigidi, non vi è una somma stabilita. Il coefficiente è l'amore invece della legge, e l'amore non può essere regolato dalla legge. Deve essere un'espressione volontaria. Coloro che sono guidati da questo principio troveranno piacere nel dare. Daranno regolarmente, senza mettersi in mostra. Daranno il denaro come prova della schiettezza del loro amore per Dio e per la sua opera. Daranno con il desiderio di donare. Il gesto della vedova povera era paragonabile all'amore di Dio quando ha dato senza riserve suo figlio per il mondo, compiendo l'atto singolo d'amore più grande di tutti. La sua prova d'amore per Dio, simile a quella di Cristo, era la sua consacrazione totale. Essa aveva compreso che il dare non è privilegio esclusivo dei ricchi, ma che anche la gente povera ha la stessa opportunità. La percentuale che i poveri possono dare dei loro stipendi, di quello che guadagnano, non è più piccola della percentuale che danno i ricchi. La quantità effettiva può essere più piccola, ma la percentuale rimane la stessa. Non c'è bisogno che il denaro sia considerato volgare. Ha del potenziale eccitante, meraviglioso, risponde a tutto quando è dedicato a Dio e al suo servizio. Solo allora ha un valore che dura. Qualcuno ha detto che il denaro è qualcosa che uno non può portare con sé nel cielo, ma può mandarvelo prima. Esso può essere usato solo egoisticamente per questa vita. Oppure per degli affari di valore eterno, come ha fatto la vedova. In questo caso, i soldi diventano un investimento di capitali nel cielo. Questa non è una fanatica opinione religiosa, ma una realtà messa in evidenza da Gesù quando disse: «Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non scassinano né rubano». L'ordine di Gesù non è quello di essere poveri, ma ricchi, di quella vera ricchezza che non avrà mai fine. E peccato che il velo che ricopriva la vita di questa donna sia stato sollevato soltanto un pochino. Sarebbe stato interessante conoscere come colui Gesù che è stato toccato dal suo dono fatto con sacrificio si sia curato di lei. Cristo non ha forse promesso attraverso Salomone e attraverso la bocca di Malachia piogge di benedizioni alle persone che avrebbero dato anche soltanto il 10% delle loro entrate? Non sta forse scritto nella legge di Dio che l'Eterno soccorre l'orfana e la vedova? La vedova povera, additata da Gesù come esempio, non era stata soddisfatta nel dare soltanto una parte del suo denaro come esigeva la legge. Per lei il 10% era troppo poco come atto di devozione a Dio. Lei diede il 100%, cioè tutto quello che era necessario per vivere. Era stato un atto di fanatismo religioso? A volte nel campo religioso è possibile compiere degli atti estremi, sbagliati. Ma questa volta la vedova povera aveva compiuto uno dei rari gesti estremi approvati da Dio. E dato che Dio non vuole e non è debitore di nessuno, non ci sono limiti alle benedizioni che Egli ha potuto riversare su questa donna povera, perché a chi dona senza riserve, Dio è capace di provvedere benedizioni senza limiti. Benedizioni non sempre ravvisabili ai nostri occhi, perché uno spirito soddisfatto di servire in modo degno Dio, la pace divina in ogni situazione, l'attesa di ricevere le promesse divine, l'amore costante verso tutti, sono ricompense ineguagliabili e inestimabili. Non che è paragone. Mentre noi diamo a Dio cose che prima o poi dobbiamo lasciare, Dio ci dona benedizioni che hanno un grandissimo valore in questa vita e saranno con noi per sempre, anche dopo la morte. Per questo un vero cristiano ha potuto affermare: non darò valore a cosa alcuna che possiedo, se non in relazione al regno di Cristo. Se qualcosa che io ho potrà servire per l'avanzamento di quel regno che verrà, dato via o tenuto secondo, se il darlo o il tenerlo potrà promuovere la gloria di colui a cui devo tutte le mie speranze per il tempo e per l'eternità, non ha importanza. Chi ha compreso la vera ricchezza lo dimostra, come la vedova povera additata da Gesù come esempio, disprezzando i beni terreni e passeggeri per acquistarsi i beni eterni. Una cosa è certa: la vedova povera ha festeggiato una Pasqua meravigliosa su questa terra, per poi averne festeggiata una ancora più meravigliosa in cielo. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti.